Ciao, allora questa sera iniziamo così presentando un'iniziativa che si svolgerà sabato 11 aprile. Si tratta di un presidio con interventi musicali e un presidio in solidarietà con le persone indagate per il 14 ottobre 2025, appunto, giornata in cui si è svolto un corteo a Udine molto partecipato, un corteo contro la partita ignobile che si è giocata appunto tra la squadra dell'Italia e quella dello Stato di Israele. E questa iniziativa l'abbiamo organizzata come Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli di Trieste, appunto per dare, si tratta tra l'altro anche di un'iniziativa benefit, per metterci al fianco appunto di tutte queste persone indagate. Ricordiamo che intanto già nella stessa serata, insomma, del 14 ottobre erano state arrestate due persone e altre 15 avevano dovuto subire il foglio di via per direttissima lì in questura, e però indifferita negli ultimi, insomma, non è tanto che è emersa, insomma, questa indagine a carico di 12 persone, tutte giovani, che non hanno nemmeno, sì, non tutte quanti più giovani di 30 anni, e i capi di accusa sono... Le accuse riguardano la resistenza a pubblico ufficiale, il travisamento, il lancio di oggetti, addirittura le lesioni personali, e ci sono state da parte della polizia delle perquisizioni domiciliari sia in provincia di Udine prevalentemente, poi anche una in provincia di Brescia. E sì, insomma, abbiamo pensato appunto che era importante dare un segno preciso, insomma, schierarci in maniera esplicita e precisa al fianco appunto di tutte queste persone, e con un gesto sì, deciso contro la repressione. Vi leggo il volantino di chiamata: al fianco delle persone indagate per il 14 ottobre contro la repressione, della solidarietà alla resistenza palestinese. Il 14 ottobre 2025 si è svolto a Udine un corteo contro la partita della vergogna tra le rappresentative di calcio italiana e dello Stato di Israele. Il corteo ha visto una partecipazione popolare massiccia, inaudita per il Friuli da decenni. con 15.000 persone provenienti da tutta Italia. E questo nonostante il raffreddamento generale delle mobilitazioni per Gaza successivo al cosiddetto cessate il fuoco del 10 ottobre. Quel corteo ha attraversato per l'ennesima volta il centro storico, rimanendo ben distante dal campo da gioco e dall'hotel che ospitava la squadra israeliana, ma anche da snodi logistici e vie di comunicazione, adeguandosi all'ordine imposto dal Viminale. Un certo senso di impotenza e rabbia serpeggiava e cresceva, per la consapevolezza che la protesta non avrebbe scalfito il meccanismo, non avrebbe bloccato, non avrebbe impedito effettivamente l'evento sportivo. Alla fine ufficiale del corteo, la determinazione di una sua parte a proseguire la manifestazione verso la zona dello stadio ha trovato la risposta repressiva dello Stato con lacrimogeni, idranti, arresti e fogli di via. Chi quella sera ha cercato di resistere alle cariche, alla pioggia di lacrimogeni, non deve essere oggi criminalizzato e criminalizzata, e va ugualmente respinta senza esitazioni l'eco delirante di infiltrazioni di entità occulte e strategie della tensione. È stato un tentativo di prendersi la piazza o quantomeno di difenderla, di essere coerenti con le parole d'ordine, bloccare tutto e di provare a superare lo stare in piazza solo per esprimere l'indignazione civile e umanitaria. L'iniziativa dell'11 aprile, appunto, al Parco di Cemento dei Rizzi a Udine, in solidarietà con alcuni indagati per supposti disordini accaduti quella sera, intende esprimersi su un piano di scontro con quel genere di risposta repressiva e anche contro quel clima di panico generato attraverso i meccanismi di propaganda mediatici e di normalizzazione sociale. La repressione contro questa e ogni altra forma di resistenza aumenterà. I tempi sono questi, ma la SUMUD, la fermezza, è l'unica guida di un movimento di protesta contro questo ordine sociale, alleato e complice del genocidio del popolo palestinese che ci sta portando oggi al macello della terza guerra mondiale. Non è vero che siamo per sempre disarmati, espropriati e sottomessi. Les mauvais jours finiront, restiamo uniti e compatti, se toccano uno o una toccano tutti, tutte. Per tutte le compagne e compagni, libertà, rilanciamo la solidarietà, Palestina libera, resistenza vincerà. E appunto l'appuntamento, quindi siete tutte invitate e invitati, l'appuntamento è per sabato 11 aprile a Udine, Parco di Cemento dei Rizzi, e dalle ore 17 in poi, a oltranza, insomma, fino a una certa ora, per un bel po' di ore. Let's go! Bene, intanto stiamo ascoltando in sottofondo, beh, in sottofondo adesso no, però abbiamo appena ascoltato due brani, ne sentiremo forse un altro due, visto la brevità. Stiamo ascoltando gli Apatía No, che è una band venezuelana che si è formata a metà anni 90 e che appunto sono di della, diciamo, di un distretto di Caracas, appunto della capitale del Venezuela, band anarcho-punk che ha fatto uscire un bel po' di album, di dischi, molti comunque sono split, tra cui anche questo che stiamo ascoltando, comunque ascolteremo adesso un paio di brani, che era uscito nel 2005 in formato 10 pollici con i Fallas del Sistema, che era una band messicana, comunque ha fatto un sacco di split, direi a livello internazionale, con band europee e anche giapponesi, e quindi però l'ultima loro uscita risale al 2011 o 2014, poi al momento non sappiamo nulla. E vabbè, ascoltiamo ancora questi Apatía No. I'm gonna try. 20:32 di giovedì 9 aprile 2026, siete sempre all'ascolto di Zardins Magnetics, trasmissione messa in piedi dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e di Trieste, ospite di Radio Onde Furlane e che va naturalmente in streaming ovunque e che viene rimbalzata anche da Radio Eustachio. Un saluto a tutte e a tutti anche da parte mia. Io a questo punto volevo semplicemente prendere parola per dire che c'è una scadenza abbastanza importante nei prossimi giorni ed è per quello che riguarda le nostre, diciamo così, tematiche, ed è quella che riguarda un palestinese che si trova recluso in alta sorveglianza a Rossano Calabro, nella struttura, insomma, nel carcere di Rossano Calabro, ed è qualificato, diciamo, come jihadista, e si tratta di Ahmad Salem. E questa qualifica di jihadista gli deriva semplicemente dall'essere essergli stato sequestrato durante la richiesta di asilo per motivi umanitari, gli è stato casualmente, diciamo così, statistica così casualmente, nel senso a caso, sequestrato il telefono perché appunto col sospetto che lui avesse dei contenuti di chissà che tipo nel suo telefono, no? Nel suo dispositivo, e si trattava semplicemente invece di, ne abbiamo già parlato, di un materiale, sì, materiale video che però comunque è di pubblico dominio, dove sì, erano ritratte delle scene che riguardano l'invasione del Libano, terra da cui lui proviene, da un campo profughi del Libano, che tra l'altro in queste ultime settimane, giorni, è evidentemente sotto l'invasione, insomma, o prossima, insomma, invasione. Addirittura di alcuni quartieri di Beirut sono sotto invasione sionista, ma comunque al di là di questo le autorità italiane hanno dimostrato per l'ennesima volta, se servisse qualche altra conferma, la loro complicità, la loro essere completamente, compattamente solidali con tutte le peggiori, diciamo, intenzioni, ma anche azioni dello Stato di Israele, che appunto sappiamo bene come si sta comportando con i vicini e con la popolazione che ha sottomesso, appunto, nativa. Tutto questo excursus per dirvi appunto che mancano pochi giorni all'avvio, insomma, delle udienze che riguardano Ahmad Salem. Le udienze si svolgeranno a Campobasso, appunto il luogo in cui Ahmad aveva presentato la domanda di asilo, giusto, umanitario mi veniva, ma comunque era e quindi gli è stato sequestrato lì, quindi diciamo il reato è stato compiuto lì a Campobasso, che non è proprio il massimo dell'agibilità da parte, insomma, non è proprio un posto così centrale, E vado a leggervi infine, per concludere, un significativo, secondo noi, appello per una mobilitazione diffusa per il 13-14 aprile in solidarietà ad Ahmad Salem, accusato di terrorismo della parola. Ahmad Salem è rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Rossano Calabro da oltre un anno. Accusato di terrorismo della parola, articolo 270 quinquies, comma 4, introdotto proprio dal governo con la famigerata legge ex decreto legge 1660, è accusato di terrorismo della parola per aver diffuso dei video sulla resistenza palestinese e ad aver esortato i fratelli e le sorelle arabe a sollevarsi in sostegno della Palestina. Il processo a suo carico si sta tenendo a Campobasso. Le prossime e forse ultime udienze saranno il 14 e il 28 aprile. Questo processo è un tassello del progetto che mira a far scomparire il popolo palestinese togliendogli anche la voce. Israele continua senza tregua il genocidio a Gaza, istituisce su base etnica la pena di morte per impiccagione per i combattenti della resistenza, provoca una guerra apocalittica in tutta l'Asia occidentale con dirette ripercussioni sulle vite di tutti gli sfruttati. L'Italia persegue i palestinesi e i solidali con la causa palestinese. Lo Stato italiano fornisce supporto alla guerra in Asia occidentale. Il governo italiano ribalta la realtà varando il decreto legge antisemitismo. Chi lotta contro lo Stato sionista, che è lo Stato razzista, colonialista, suprematista, rischia di essere arrestato per odio razziale. Quindi insorgiamo contro questo sistema marcio e gettiamolo nella pattumiera della storia, solidali con tutti i palestinesi e i solidali colpiti dalla repressione. Sosteniamo la resistenza contro l'oppressione coloniale in tutta l'Asia occidentale, mobilitiamoci per bloccare tutti i rapporti militari, economici e politici tra Italia e Israele. Contro la guerra dei padroni, solidarietà internazionale tra gli sfruttati e le sfruttate, libertà per Ahmad e tutti i resistenti rinchiuse nelle carceri italiane. In occasione della mobilitazione a Campobasso che si svolgerà martedì 14 aprile, ritrovo ore 11 in piazza Municipio, facciamo appello a tutte le realtà sinceramente solidali con la resistenza degli oppressi palestinesi a manifestare in tutte le città nella giornata di lunedì 13 aprile o nella stessa mattinata di martedì 14. Organizziamo iniziative di supporto e controinformazione. Allucinante vicenda di Ahmad Salem non deve passare sotto silenzio. La firma è Complice Solidali dal Molise altrove, insieme a Assemblea Antimilitarista Sabotiamo la Guerra. A questo appello immediatamente aderito l'Assemblea per la Palestina di Trento, che appunto chiama per lunedì 13 aprile alle ore 17 in piazza d'Arogno un presidio solidale con tutto quanto abbiamo detto, insomma, con la vicenda sia di Ahmad Salem sia di Annun, Tarek, ovviamente con Annan che sta aspettando, insomma, l'appello, eccetera, insomma, questo l'ho detto, insomma, ecco, quello che è la prima risposta, ecco, che si svolgerà a Trento. Naturalmente nel nostro piccolo anche l'iniziativa dell'11 aprile qui a Udine sarà un'occasione per portare ovviamente l'attenzione e la mobilitazione su questa tematica della repressione e la collaborazione dell'Italia con Israele effettiva, diciamo, di repressione. Insomma, il messaggio che deve passare è che un palestinese non deve star tranquillo da nessuna parte, insomma, nei paesi occidentali è sempre braccato, è sempre, deve inchinarsi, non può esprimere nulla, ma tantomeno può agire, e tantomeno può agire resistendo. Ecco, questi sono, ricordiamolo, sono, cioè, noi viviamo, fa ridere dirlo ormai, però lo Stato italiano è l'esito di una lotta di liberazione portata avanti dalle partigiane e dai partigiani. Questi compagni palestinesi, pure setacciati con queste etichette jihadiste, jihadisti, no? Tagliagole, nonostante questo, la realtà è questa, che loro sono dei combattenti per la loro patria, fin dei conti, e vengono così, bloccati, rimangono impigliati in queste reti costruite, insomma, da giudiziari, chiamiamole, con questi artifici, ecco, inqualificabili, come questo reato di terrorismo della parola, ecco, che era semplicemente il voler essere, lanciare un appello, ecco, lanciare una mobilitazione a tutti i suoi, appunto, tra l'altro a tutti i suoi fratelli e sorelle arabe, della nazione araba, non ai suoi, cioè, concittadini, stiamo parlando appunto della nazione araba. Quindi è ancora più grave la cosa di bloccare, di colpire, di reprimere questo genere di istanze da parte di quelli che sono appunto i sfruttati, sfruttate, oppressi, e sicuramente appunto popolazioni native che devono subire quella che è la realtà del dominio, di un dominio coloniale, anche insomma imperiale, che è sicuramente al tramonto, che sicuramente insomma è la sua rovina, e che non si sa quanto durerà, ma comunque il destino è segnato. Lasciamo un po' in sottofondo questa band che stiamo ascoltando. Loro sono i Disforia, una band abruzzese, esattamente di L'Aquila, e noi stiamo ascoltando dei brani che stiamo estrapolati da uno split 12 pollici uscito nel 2017 assieme ai Drunkards. Disforia. Ecco, scusate se c'è stato un attimo di silenzio. Allora, stavamo ascoltando i Disforia, band di L'Aquila, in Abruzzo, da un loro split 12 pollici uscito nel 2017. Ora invece passiamo all'ascolto di un paio di brani per questa band inglese che ha fatto uscire un buon numero di 7 pollici a inizi anni 90, tra cui appunto questo Take Your Elbow Off the Table. E comunque band che, così come ho detto, primi anni 90, molti 7 pollici e diventati molto noti perché all'interno vi cantava Steve Ignorant, ex cantante dei Cress. Sì, proseguiamo proponendovi la lettura di un appello a tutti i collettivi, i gruppi, le associazioni, i singoli che si battono a fianco della causa palestinese, a tutte e tutti i nemici della guerra capitalista, a tutte e tutti i disertori della falsa coscienza occidentale. Si tratta appunto di un appello che è stato redatto a marzo, lo scorso marzo, insomma qualche settimana fa, dall'Assemblea di Solidarietà con la Resistenza Palestinese di Trento. È importante secondo me perché fa una proposta, cioè la proposta di individuare la data del 15 maggio, che è la data di fondazione dello Stato di Israele, ma è soprattutto la data della Nakba e quindi della catastrofe del popolo palestinese, appunto individuare questa data per fare iniziative di lotta diffusa, insomma, appunto su tutti i territori. E appunto ci dicono i compagni e le compagne di Trento: facciamo del 15 maggio, giorno della Nakba, la giornata della memoria di tutte le vittime del colonialismo e dell'imperialismo e di tutti coloro che vi hanno resistito. A mo' di introduzione di questo appello, vi leggo anche un pezzetto di del discorso contro il colonialismo di Aimé César, spero di aver pronunciato giusto, un testo del 1950. Ci dice: sì, vale la pena di studiare clinicamente nei dettagli le tattiche di Hitler e dell'hitlerismo e di svelare al molto distinto, al molto umanista cristiano borghese del XX secolo che custodisce in sé un Hitler nascosto, un Hitler che abita in lui ed è il suo demone, che se lo rifiuta per mancanza di logica e che in fondo ciò che non perdona ad Hitler non è il crimine come tale, il crimine contro l'uomo, non è l'umiliazione dell'uomo in sé, ma il crimine contro l'uomo bianco, il fatto di aver applicato all'Europa metodi coloniali finora riservati agli arabi di Algeria, ai coolies dell'India e ai neri d'Africa. E appunto nell'appello, per fare del 15 maggio, giorno della Nakba, la giornata della memoria di tutte le vittime del colonialismo e dell'imperialismo, e però soprattutto anche di tutte e tutti quelli che vi hanno resistito, l'appello inizia così: la lotta sociale è anche una battaglia per la conquista delle coscienze. Se questo è vero da sempre, lo è in modo particolare nella società odierna, in cui i mezzi di comunicazione di massa, insieme a istituzioni educative e culturali come la scuola, l'università, la ricerca, svolgono una funzione indispensabile nell'elaborazione del consenso necessario alle élite per attuare i loro piani. Questo è ancora più vero in tempi di guerra. Se per combattere è necessaria la carne da cannone e da lavoro, una società in guerra ha bisogno del concorso compatto ed entusiasta della popolazione e non può quindi permettere il dissenso. Quando persino i libri di politologi fedeli al regime, pubblicati da autorevoli case editrici, vanno dicendo che il genocidio a Gaza ha aperto una profonda ferita nella coscienza dell'Occidente, conviene credergli. Chi oggi ha 20 anni o meno sta crescendo con questa verità desecretata. Quella parte di mondo che si fregia della sua superiorità democratica e consumistica, farcita di diritti di ogni tipo, ha la responsabilità morale e materiale di un genocidio trasmesso in mondovisione. Tra l'altro, scusate l'inciso, per un po' ricollegarci al discorso che si faceva prima relativamente alla repressione verso i palestinesi della diaspora e verso i solidali con la resistenza palestinese, e anche ricollegandosi col discorso appunto sul sostegno ai cosiddetti colpevoli di Palestina a tutti i livelli, diciamo, anche a livello della repressione che si scatena, insomma, contro i giovani manifestanti, ad esempio, che hanno agito il 14 ottobre 2025. Questo discorso, insomma, di queste nuove generazioni che crescono con questa verità desecretata, è importante perché si vede anche da parte della controparte, cioè da parte del potere dello Stato, questa sorta di guerra, diciamo, verso i giovani, cioè questa sorta di accanimento contro i giovani, no? Questa criminalizzazione spiccata contro le nuove generazioni che appunto hanno Mm, in un certo senso, insomma, hanno vissuto questa specie, cioè stanno vivendo questa specie di risveglio. Vedono, diciamo, questa, appunto, questa verità desecretata di cui si parla, cioè questo diciamo velo strappato di fronte alla responsabilità morale e materiale dell'Occidente rispetto al genocidio del popolo palestinese, ma rispetto anche, per dire, a tutto quello che si sta scatenando, insomma, in questi mesi, compreso lo stato di guerra generalizzato. Mentre in diversi paesi europei si discute o si comincia a reintrodurre la leva obbligatoria, questo stato d'animo non è certo un incentivo a lasciarsi arruolare. Ecco perché la classe dominante corre ai ripari, da un lato con l'esibizione permanente dell'autoritarismo degli altri, che sia Putin, Khamenei o Xi Jinping, che hanno almeno il limite di esercitarlo dentro o attorno ai propri confini, mentre i nostri, tra virgolette, impongono da sempre i loro interessi al mondo intero. Dall'altro, costruendo una memoria spesso falsificata e sempre selettiva, che parla il meno possibile degli orrori compiuti dalle democrazie liberali o dai loro antenati. L'obiettivo è chiaro: richiudere il prima possibile la ferita palestinese e così arginare il dilagare del disfattismo che alla lunga renderebbe impossibile la mobilitazione bellica. Se la falsa Pax trumpiana a Gaza è stata il primo passo in questo senso, accompagnato da una discreta stretta repressiva in Italia e non solo, il secondo passaggio non può che essere l'illegalizzazione di ogni supporto alla resistenza palestinese, fino a farne un vero e proprio reato di opinione. Mentre gli arresti e le persecuzioni dei tanti Yaesh, Shaheen, Hanun, Salem hanno preparato il terreno nei giorni scorsi il governo italiano, con l'appoggio di una parte dell'opposizione, ha varato il famigerato disegno di legge che equipara antisionismo e antisemitismo. Un'equiparazione assurda, infame, insostenibile, basata sulla definizione di antisemitismo data dall'International Holocaust Remembrance Alliance, una di quelle agenzie di propaganda sionista che intendono trasformare la memoria degli orrori di ieri in una clava a difesa degli orrori di oggi e rendere la fedeltà allo Stato di Israele una specie di prerequisito di agibilità democratica. Dove leggi simili sono passate anni fa, come in Gran Bretagna e in Germania, una manifestazione può essere impedita per la semplice esibizione di una bandiera palestinese, o peggio ancora se grida Palestina libera dal fiume al mare. Nella Repubblica Federale Tedesca, dove il sionismo obbligatorio è stato imposto fino alle più estreme conseguenze, firmare una carta in cui si riconosce lo Stato di Israele è addirittura una condizione per l'ottenimento della cittadinanza da parte degli immigrati. Se anche un bambino capirebbe l'insostenibilità dell'equiparazione fra antisemitismo e antisionismo, ancora più grottesca in Italia, dove viene imposta né più né meno che dagli eredi di chi ha promulgato le leggi razziali e collaborato alle deportazioni in Germania, la forza della propaganda non sta certo nella sua logica, ma nella ripetizione asfissiante di alcune formule, ad effetto opportunamente accompagnate dalla censura di ogni posizione dissidente. Una sorta di maleficio che è stato preparato anche con le varie giornate della memoria selettiva, 27 gennaio, o del ricordo falsificato, 10 febbraio, e che va rotto, questo maleficio, in modo sistematico. Per questo pensiamo che alla lotta in senso stretto debba accompagnarsi da parte nostra anche una battaglia culturale. Se continuare a intervenire nelle diverse giornate di cordoglio comandato ci sembra perciò importante, crediamo che incalzare il nemico sul suo stesso terreno non basti e che sia necessario dotarsi di spazi in cui ricostruire una memoria nostra, quella di chi lotta dalla parte di tutti gli oppressi, senza distinzioni di colore o nazionalità. Il 15 maggio, come noto, è il giorno della fondazione dello Stato di Israele. Per i sionisti si tratta della giornata dell'indipendenza, in cui gli ebrei avrebbero riconquistato la propria sovranità dopo secoli di persecuzioni. Per i palestinesi il 15 maggio è invece il giorno della Nakba, catastrofe, in cui fu sancita definitivamente l'occupazione della Palestina, con circa 800.000 profughi costretti a lasciare per sempre le proprie case con l'inizio della cosiddetta prima guerra arabo-israeliana. il culmine di una pulizia etnica che comincia già alla fine del 47. Se questa data è già in tutto il mondo una giornata di mobilitazione dei palestinesi e dei loro solidali, la nostra proposta è rafforzarla, rendendo il 15 maggio la giornata della memoria di tutte le vittime del colonialismo e dell'imperialismo occidentale. Una giornata cioè in cui, insieme alla tragedia dei palestinesi, venga ricordato lo sterminio secolare di centinaia di milioni di nativi americani, asiatici e africani, la deportazione e schiavizzazione di almeno 10 milioni di persone dall'Africa, la sistematica distruzione delle strutture sociali, politiche ed economiche in India e in Cina, lo spaccio di alcol e oppio per infragilire i sudditi renitenti e aprire le frontiere, la guerra contro le popolazioni oceaniche da parte dei mercanti e dei soldati di Sua Maestà Britannica, lo sterminio degli Herero da parte della Germania, il Congo trasformato in un enorme campo di lavoro e di sterminio da Leopoldo II del Belgio, la spartizione dell'Asia occidentale da parte di Francia e Gran Bretagna con gli accordi Sykes-Picot del 1916, le stragi francesi in Nord Africa, Madagascar, Indocina, le guerre statunitensi alla Corea, al Vietnam del Nord, all'Afghanistan, all'Iraq, le guerre sporche degli USA in America Latina. E infine, per quanto riguarda noi, le imprese italiane nei Balcani e in Africa, con gli orribili primati del primo bombardamento aereo di una città, Tripoli nel 1911, e dell'uso dei gas contro la popolazione civile, Etiopia 1935-36. Quindi il 15 maggio, una giornata di mobilitazione che non si limiti al passato e tenga ben desta la memoria del presente, un passato che non passa, ma prosegue con il cappio del debito stretto al collo del sud del mondo e nelle varie guerre dirette e per procura che gli stati occidentali continuano a muovere, ovunque per i propri interessi di potenza e i profitti di un pugno di nababbi, dal Congo all'Asia occidentale, dal Sudan all'Iran, dal Kurdistan all'America Latina. E che non dimentichi tutti coloro che hanno resistito al colonialismo e all'imperialismo. Mentre ci impegniamo a organizzarci per il prossimo 15 maggio, facciamo appello a tutti gli ingrati disertori del benessere occidentale a rilanciare questo appuntamento, ciascuna alla propria maniera, con i propri contenuti, il proprio linguaggio, la propria sensibilità, organizzando per il 15 maggio delle iniziative che vadano in questa direzione: memoria e solidarietà con gli oppressi palestinesi, nella memoria solidale internazionalista con tutti gli oppressi del mondo. Il 15 maggio organizziamo incontri, presentazioni di libri, dibattiti, azioni, allestiamo mostre documentarie e fotografiche, scendiamo in strada, siate e siamo la cattiva coscienza di questa civiltà assassina e marcia che non ha proprio nulla da insegnare al resto del mondo, ma ha molto da imparare anche su se stessa. Se ciò che l'Europa non perdona ai nazisti è di aver fatto all'uomo bianco ciò che era sempre stato riservato ai popoli colonizzati, non c'è solo una memoria, ma anche una coscienza da recuperare e una ferita che non deve rinchiudersi, ma allargarsi il più possibile. Ecco, questo era appunto questo appello lanciato dall'Assemblea di Solidarietà con la Resistenza Palestinese di Trento, che, al quale insomma intanto aderiamo in questa forma di stasera. E intanto stiamo ascoltando questa band, i Crowboca, band francese, dal loro ultimo album proprio datato 2026, una band che, diciamo, la prima loro uscita risale a 10 anni fa circa. Ne hanno fatti almeno una mezza dozzina di album, e che dire, tra l'altro appunto di base in Francia, però all'interno ci sono componenti di origine greca e anche dal Marocco. Comunque, Crowboca. J'ai d'apprendre des choses. Ok, permis pour entrer dans la danse. Mais pas de faire rire, rendez-moi ma France. Je vais te prendre, mais t'as besoin de jeu. T'es connerie, elle s'en suit. Je viens de faire en mer et Ok, boomer. Le monde est jeune, mais c'est surtout ta faute. On se colore la gueule pour encaisser la chose. Boomer a peur de la remise en question. Tes fragilités, des grosses émotions. Du coup tes conclusions puent la pisse. Et puis t'iras jamais voir un putain de psy. Tu veux nous faire croire que tu peux plus rien dire. C'est juste que sans être raciste t'as plus d'un pif. Jure de pas prendre toute la fucking place. Et qu'on supporte plus tes vieux running gags. C'est juste que sans être raciste t'as plus d'un pif. T'as plus d'un pif. Ok, boom. Siamo agli sgoccioli di questa puntata di stasera di Zardins Magnetics, la trasmissione che va in onda tutti i giovedì in diretta dagli studi di Udine in via Volturno, Radio Onde Furlane, ma che poi viene rimbalzata, insomma, ed è sempre ascoltabile dai nostri, così, dal nostro blog. Per ricordarvi semplicemente, un sabato con la resistenza palestinese sarà questo sabato di Udinese dell'11 aprile, si svolgerà appunto nella zona Parco di Cemento. Per chi non conosce Udine, è nella zona vicino allo stadio, appunto, famigerato, e sarà un sabato appunto con la resistenza vicino alle colpite dalla repressione, per essere stati solidali con la resistenza palestinese in occasione del corteo del 14 ottobre, nel dettaglio, ma sarà anche non solo un tempo dedicato, diciamo, con musica dal vivo, oltre che con, ecco, con interventi a voce, sarà anche uno spazio dedicato con allestimenti, con banchetti di materiale informativo, distro e quant'altro, eccetera, insomma, dove ci si troverà anche, sarà uno stare assieme, e un ponte, un qualcosa, insomma, che prosegue verso un percorso da continuare, ecco, di lotta e di solidarietà, insomma, di stare al fianco con generosità con questa, ecco, con quella che è l'esperienza, insomma, della resistenza palestinese. Sarà tutto in, ripeto, al Parco di Cemento di Rizzi, alla partire dalle 17 di sabato 11 aprile, e penso che non c'è altro. Abbiamo già, insomma, esposto prima la chiamata, e vi aspettiamo, insomma, cerchiamo, insomma, di speriamo, ecco, di incontrarvi numerosi e numerose in questa iniziativa di Udine dell'11 aprile. Disparo. Bene, questi che abbiamo ascoltato erano i Kraftwerk, band francese che la loro prima uscita discografica è avvenuta circa 10 anni fa. Questo invece era proprio il loro ultimo album, datato 2026, che si chiama Drapeau Noir, bandiera nera. E vabbè, band di base e a Tolosa in Francia, con all'interno componenti dal Marocco e anche dalla Grecia, ovviamente francesi. Ora invece andiamo all'ascolto di questa band storica inglese degli anni 80. Loro sono i Broken Bones, e da questo album uscito nel 2005, Time for Anger, Not Justice, Broken Bones. Teniamo in sottofondo questa band e i Broken Bones perché siamo agli sgoccioli con i tempi. Ricordo che la trasmissione del Tardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dalle ore 20 alle ore 21:30, sempre qui dagli studi di Radio Onde Furlane, anche oggi 9 aprile 2026. Ricordo anche che grazie all'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione di Friuli e Trieste questa trasmissione funziona. E come di consueto ricordiamo i nostri contatti: chi volesse scriverci tramite posta elettronica può appunto scriverci alla mail liberetutti@autistiche.org, oppure può scriverci in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro 34121. Ricordo anche che la trasmissione odierna, ma anche quella delle settimane scorse, potete sempre riascoltare il tutto andando nel blog Zardins Magnetics radio.noblogs.org. Bene. Salutiamo tutti, anche chi ci ascolterà domani in replica su Radio Eustachio alle ore 11 e su Radiazione alle ore 17. Ovviamente queste due radio sono delle due web radio. Ecco, bene, quindi l'appuntamento radiofonico per Zardins Magnetics è al prossimo giovedì, e vi lascio con un ultimo brano dei Broken Bones. Ciao a tutti, al prossimo giovedì. Wanna.